spacca la schiena tutto il giorno con due soldi contatti, guarda, e neanche ti battono. Lo so, deve studiare, studiare, andare a giocare in borsa, capito, con 100 euro, vedrai che ne guardi male se mi sei fortunato, non li perdi, se vuoi. Ma quel poco che sta facendo nei giornali ho visto che sta facendo pochi tagli lo Stato a tutta l'Italia, chissà che vedrai il casino che succederà, manco un'idea ne hai, ma sono contento, guarda, che succede alla fine, che la gente si ribelli, si faccia rispettare, perché non fanno altro che tagliare a chi non ne ha, ti fanno diventare sempre ancora più povero di quello che sei. Vabbè, lascia per il circo, dopo di che la vuole dietro alla cosa allo Stato. Non è il discorso di lavorare in nero, che giustamente un minimo di assicurazione nel lavoro ci vuole, se ti fai male ti devi pagare tu, e gli altri se ne lavorano le mani, in qualsiasi lavoro almeno un minimo di assicurazione ci vuole, anche per volerti bene a te stesso alla fine, però la situazione sta diventando troppo critica, ha rotto lì, dunque la gente deve uscire da casa e farsi sentire e cambiare le cose, perché stando in casa la situazione peggiora ancora di più. Poi arriva in un certo punto in cui non puoi fare più niente, voglio vedere come si comporteranno. Casi lo bisogna fare, basta. Non bisogna fare altro. Mi piglia cacca. Ce ne siamo visto, senz'altro. Aspetta una seconda, perché vado a seconda. Eia. E come non siete sul 10? Perché io stavo parlando, io stavo facendo un giro di canali, aspetta, che è successo? Boh. Comunque un giro, forse che sono un canale più basso, stavo facendo un giro di canali e sul 5 c'erano i tedeschi, i francesi, poi questo camionista a Londra, italiano, si chiamava Solitario, stavo cercando di comunicare con lui, ma è durato pochissimi minuti ed ero lì, poi è entrato Falchetto che chissà cosa si è piazzato e poi Pompone e tu. Cosa ha piattato Falchetto? Non ho sentito, quando lo sento te lo dico, poi lo deve dire lui cosa c'è, sta usando una radio diversa, un microfono diverso, ma Falchetto ne ha diversi di microfoni, attento, non è che non ne abbia di roba, c'ha due per radio, quindi magari ha invertito qualcosa, tu abituato a sentirlo sempre con la stessa radio, perciò non ci stanno problemi. Va bene, falso allarme, era mio collega, voleva sapere come era andata ieri, gli avevo detto, è andato tutto ok. È meglio così, comunque è fatto stare, stava dicendo con Pugno che dovrebbe arrivare verso mezzogiorno e mezzo in grotte, ma poco ci credo, perché gli orari lui non li rispetta poi così tanto, comunque se la prende con calma. E non la fate fare anche bene, è meno frenetico di noi. Comunque, se appena arriviamo ti faccio chiamare. Siamo già sentiti poco fa. Io sono a casa, non mi muovo più perché sono stanco, fino a finita alle 2. È qualcosa. Stamattina alle 6 mi sono molto alzato. Sono stanco, bisogna riposarmi, quindi adesso mangio. Mangiamo un boccone, c'è anche mia figlia a pranzo, e poi mi corico, mi sdraio, mi rilasso sino almeno alle 4 o 5, poi già sono qua in radio, tanto non va bene, sono a parte. Ok, sono qua comunque, non c'è problema. Se vuoi dire, beh, candeliere, non ce lo fai un salto. Io non ho mai visto i candelieri, non mi interessa, non so manco come sono fatti, non mi interessano i candelieri. Io vado solo a festa grande, non sono sassarese, sono portorese io. Vabbè, quello sì, no, è la verità, naturalmente sono andato una volta solo, ma con la scusa che c'è questa festa, adesso vi do un po' come si presenta la serata, là, per cercare di fare una passeggiata, finché la mia signora ce la fa, vediamo un po' come esce la situazione, tutta sorpresa alla fine. Lascia, grande confusione, basta, poi. Questo è troppo scelto, io vado solo al produttore della festa grande, ma non vado neanche il primo giorno, vado sempre il secondo, perché il primo giorno c'è moltissima gente, e basta, e nulla, e poi a casa, capito? Quindi, da parte mia, candelieri, li ho già fatti i candelieri, ieri, oggi, ci ho commosso, parte i candelieri, madre di Dios. E quando c'è il minimo riposato, se no neanche 4 ore può essere partito, dunque c'è una rimangia che sia abbastanza stanco. E niente, anche lui mi ha chiamato stamattina ed era mezzo indeciso a prendere la pizza oppure a fare, anzi voleva comprare le melanzane alla parmigiana, è tutto un po' incasinato, vedo se mi toglie fuori adesso. Non so, diciamo, sentiti, io stavo uscendo dal tempio, uno scorrimento veloce, e ci siamo sentiti, e niente, infatti ho detto, cosa fai, vieni, non voglio più assoluto, sono stanco molto, faccio una bella doccia adesso e poi mi rilascio un pochino, sto a casa e basta. Io ho lavorato con Vulcane, oggi lo stesso, domani mi aspetta lo stesso, quindi in questi giorni poi ci sono tutti i paesi, la città piena, può succedere qualcosa, voglio essere fresco, se no ieri notte ero pizzi, ho messo la testa nel cuscino, mi sono alzato, proprio mi sono svegliato così, alle 6:30, ma stavo per non andarci, invece poi sono partito alle 7:15, 7:10. E sto rientrando adesso, tutto qua. Ok Antone, dai, ti lascio, vado a lavarmi, ci sentiamo dopo se siete qua, e se no ci sentiamo dopo la casa di Antonello, dai, fatevi sentire. Perfetto, sempre sul canale 10, dai, allora buon lavaggio, ci stiamo più tardi, dai, poi riposati un pochettino, così rimani più fresco, d'accordo, ci sentiamo più tardi, allora buon proseguimento di serata. Ok Antonio, anche a te famiglia, dai, ci sentiamo dopo, è tutto acceso qua, non spengo niente, tutto acceso, fatevi sentire, io qua su 10 ore volete, non ci sono problemi. A dopo vado a lavarmi, ciao. Eia, ciao, qua più tardi allora. Eia, avanti Germania, col buongiorno, avanti Italia. Sentite come modulare, mi risponde il due. Avanti, avanti Germania, col buongiorno. Operatore Antonio Barracuda, modulatore Nord Sardegna Italia, avanti Germania, cambio. Questo su Manzano c'ha mente, ma non risponde però. Ha sentito la modulazione italiana, forse hai sentito a me, ma già ci arrivi anche tu. Insisti Antonio, insisti. Ehi, avanti Germania, ti copio benissimo, avanti, buongiorno, avanti. Come si deve avere stare arrivato. Quello grande è un centinaio di watt. Ma non la giurava e quindi mi ha fatto vedere in grigio, va. Seguo completamente il buio. Capito? Comunque. Prova, già ti fai sentire. Ehi, ascolta prima di lasciarti in pace, te volevo dire. Quello lineare che stai consigliato a Minestrone di Chiaramonti, che mi ha detto che si alimenta direttamente dal 220 col trasformatore, che è a transistor, è molto costoso come pezzo. No, a me da Pesaro mi viene poco più di 250 euro. Ho capito, dai, dovrò aspettare allora, va bene. Comunque dai, dovrebbe essere abbastanza buono, alla fine può regolare il fate, sì, da zero sino a quanto arriva, sì, è regolabile quello. Non quello, quello non ha niente da regolare, quello devi regolarti solo al radietto. Ha un input d'ingresso da 5 a 10 watt, quindi non ne hai dai 5, non ne hai dai 10, non più di 10, altrimenti bruci il finale del lineare. Con 10 watt eroga intorno ai 350-400 watt, con 5 siamo intorno ai 280 watt, capito? Cioè 6 potenze, non bisogna mai metterla alla sesta potenza, la quinta almeno, è fatto tutto lui, no? Non devi accordare niente, non devi fare niente, è un ottimo amplificatore, io l'ho ordinato, ma aveva detto che arrivava prima di Ferragosto, invece mi ha telefonato, il corriere non è partito, quindi sicuramente arriverà dopo Ferragosto. Ma non mi interessa già ne amplificatore. Volevo collegare quello lì all'Aran 48 e lasciarlo fisso, capito? Va bene, dai, ci sentiamo più tardi, ciao. Eia, ciao, più tardi allora. Ora, attenzione, più lunga. Eia, buongiorno, ben sentito. E dove sei? Platamona. Ah, Platamona. Allora che passi una giornata al mare oggi? No, io una volta sto rientrando dal mare. Sto rientrando. Ah, rientrando, allora non ci ho lavorato. No, sono andato presto e me ne sto rientrando adesso perché ho roba da fare. Mi sono fatto un po' di bagni, ho portato il bambino un po' a fare il bagnetto e me ne sto rientrando. Già va bene, dai, l'acqua com'era? Tranquilla? La giornata, diciamo, anche se sta cambiando un po', comunque il mare era abbastanza calmo, sì. Sì, il mare era tranquillo, però quella calda. E un sole un po' pallido, non si sa se descrive lo sole o no. Non è quello che brucia, e comunque si stava bene. Già va bene, comunque gente pochissima penso, sì, una roba abbastanza affollata come spiaggia. Dalle 55 alle 65 euro. antenna lì, dalla Midland, la Energy 1.5, poi c'è quella 5 ottavi, quello che c'è anche il pompone con 3 radiali. Sì, sì, ma anche quella del pompone va bene, va bene, va bene. Ma io non so se mi stai aiutando, adesso se si riesce però vai alla grande. Come mi ascolti tu a me dalla macchina? No, sono libero, sempre con 68 è il microfono della ZG, non c'ho altro. Santiago 7, radio 5 a bomba. Cavolo, vai, quindi già va bene anche questo. Magari anche la tua è la posizione, non lo so, però io ti sento mai con le palle. Adesso sono contento, ma non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Ho semplice cavo di 22 metri, l'antenna, bomba, racchino e microfono, non c'ho altro. E conta che ho un alimentatore da 3 ampere, 12 volte, di 18 anni fa, il mio primo alimentatore, non ho altro, poche attrezzature di quella, due soldini, ma vedo che già funziona, già va bene. A volte passano poche cose, azzeccate, a volte le complicate non riesci a azzeccarle, e a volte magari con poca roba che è azzeccata bene, vai alla grande. Anche la microfonia è buona, la microfonia è forte, va bene, dai. No, ma poi la ZG, io ho l'MD più 4, semplice semplice, già va bene che va bene, penso a qualsiasi apparato, dai, già è abbastanza universale un po' per tutto questi microfoni. No, con questo tuo spinge un bel, spinge molto di più tra gli altri apparati, non so se sia stato modificato, che cosa, però spinge un bel di più. Io ne sento tanti MD più 4 e così non spingo. Forse che va bene per il 68 S, poi bisogna vedere quando ritiro il Galaxy a vedere se cambia qualcosa, se diciamo la stessa uscita, bisogna sperimentare, provare. 49. Via. Senti, la 48 col 3 più 3 cambia. Cambia, Ha visto. Cambia un bel po', sì. Il segnale lo stesso, però la modulazione rimane più leggera, più dolce rimane, dai. Appunto. Quindi tutti i microfoni già si adeguano alle radio. Quello è vero, però la radio a radio sembra così, cambia un po' la situazione. Poi avevamo sentito che, come si dice, anche per il Galaxy era un buon abbinamento, così era come avevano detto. Bisogna sperimentare sperando che questo si sbrighi a mettergli le mani addosso. Dopo le feste lo chiamo di nuovo. Aspetta Antonio un secondo. Eia. Lo faccio sentire, ragazzi, ascoltare più tre. Perché ce l'hai? Sì. Ce l'hai? No, non ti ho fatto vedere, no. Non hai visto brutto, aspetta, non hai visto perché è brutto. Sinceramente ho visto quello che c'avevi lì intorno alla tavola rotonda che hai, o quasi rotonda che ci manca poco, ma l'altro non te l'ho visto però. Adesso al telefono poi te lo faccio sentire. E io vai tranquillo. E durante il viaggio come lì, libera la strada, c'è traffico? No, già è abbastanza scorrevole a quest'ora, infatti sono salito prima per quello, perché poi intasa tutto. Ho preso l'ora buona, dai, sono andato un po' presto, verso le 9 e sono risalito adesso. Siamo fatto un bel bagnetto, e poi l'abbiamo giocato e via, e adesso ce ne stiamo rientrando. Bene, dai, poi la cosa sono i candelieri, ci scendi, sì, o rimani rintanato in casa? Ah, non lo so, cioè, perché a me la confusione non è che piace molto, dico la verità. Dove c'è confusione non è amica mia la confusione, dove c'è molta gente, tutti questi, non è che sia molto amante di queste cose, più che altro se vado per fare una passeggiata, amico, così, però l'afflusso di gente non mi ha mai attirato. Quello certo neanche a me, già ti la volta, secondo il numero che hai già ti prende male. Comunque, trovare almeno un punto giusto, dai, dove ci sia meno affluenza e cercare, dai, diciamo la... E alla fine il punto giusto per cui vedere... senza che nessuno ti disturbi, ma alla fine non sono i candelieri, già c'è sempre abbastanza caos. E poi quando c'è il bambino, questi cose qui non mi piace molto, lo sai, a oggi avevo detto che se c'era croce la Poggi, ci chiamati a vedere la capolana. Si sono anche accoltellati, qua c'era gente un bel briaga, si sono accoltellati al concerto. Quanto me? Eia! Guarda se cambia qualcosa. Formulazione è una via di mezzo, un'altra la prima. Tanto più stretta, penso che la c'è brutta, non è mio però. Mi hanno fatto fare una modifica. Ma no, va bene, vanno molto bene. È uguale, quello che c'è tu a questo sono uguali. Solo questo è vincolare, quello là è basso. Non cambia niente. Ottimo, ottimo. Comunque io preferisco sempre quella che abbia 23 canali col tane più 3. Anche l'MS200 funziona bene, quella che ho io. Però preferisco sempre quel 23 canali piccolino. No, già cambia qualche miseria, c'è una modulazione talmente nitida, è potente, però allo stesso tempo è equilibrata. Capito? C'è una potente equilibrata e pulitissima, No, la cena è differente, come che c'è? 9,30 qua, però diciamo lo Smith rimane fermo, non si muove di un millimetro. Guarda, adesso ho commutato con la KB23, guarda la differenza, ma senti la radio. E come se c'è? Ripeto, lo Smith rimane sempre fisso, non si muove di un millimetro, però la potenza è potente, equilibrata e molto, molto schietta, non ha la modulazione, è pulita pulita rimane, veramente pulita. Io lo so, sì. Questi baracchini maledetti quelzati sono così, funzionano bene. Mi hanno fatto tre pietre a Luigi, ancora non ho fatto la connessione. Abbiamo sistemato tutti i fili e già dei fili staccati. Adesso lo piazzerà, ce lo fa sentire anche lui a ver come esce. Eppure il saletto l'ho dato a Massimiliano, che lo sta usando lui, la mia guerra. Lo sto usando qui, lo sto usando proprio con questa radio, il saletto, col Galaxy Blu. Però, non so, secondo me dipende tutto sempre dalla modulazione, dalla voce, portare i microfoni in altra soluzione non ce n'è, non lo so, non lo... Dai, mi sto preparando, tanto me, te lo fa sentire con la radio, ci sentiamo dopo, anzi ci vediamo dopo. Eia, comunque è veramente bella, a me piace, è una bella modulazione. Poi c'è una cosa da radio, radio cambia, c'è poco da fare, comunque il mio quasi non ne ha, per quanto sono il giorno che l'ho aperto, così a vedere come era detto, io quasi non li ho visto, è sprovvisto il Saturn. Grazie, adesso sì, no, questo KB23 è l'MS200, quelli sono quartati, vanno molto bene, gli altri invece sono tutti trasitorizzati. Va bene, dai, buon proseguo, dopo, ci vediamo dopo. Adesso faccio uno sguardo Antonio, ciao. Eia, a dopo, cosa mi preparo anch'io? Fatemi pronta, sì. Beh, ciao, quanto vai, ci sentiamo, vai. Buon proseguimento di giornata e buon saluto. Io sono arrivato, vi saluto e vado a dopo, va. Ciao, Antonio, ci sentiamo. Eia, buon proseguimento di serata, vai. Sentiamo alle prossime allora. Siamo su 10 in ascolto, Antonio, che se chiamo Antonio ho detto che ero su 10. Eia, accendo sul 10 allora.